Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Tra qualche secondo sono le 15 a Radio 24 e quindi è il momento di dare il via al sabato del villaggio. Staremo insieme come sempre per le prossime tre ore fino alle 18. La terza ora è quella di RadioTube per parlare del nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana con un sacco di ospiti, un sacco di gente oggi a Radio 24. Nella terza ora, ve lo dicevo, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come tenerci compagnia? Beh, c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV, ma anche i nostri numeri di SMS e WhatsApp 349-238-6666, 349-238-6666, che vi anticipo, anche questa settimana serviranno per portarsi via 5 coppie di biglietti per le date di Gegè Telesforo. Allora, tra poco vi dirò come e quando. La scorsa settimana ci sono arrivati davvero tantissimi SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Dai, vi lascio ancora un po' in attesa, vi dirò tra poco come fare ad aggiudicarveli. Ma intanto parliamo anche un po' di quello che avverrà qui al sabato del villaggio nelle prossime ore, anzi nella prossima ora. Cominciamo a svelarvi cosa accadrà nella prima ora. Parleremo di novità nella telefonia, nell'appuntamento con le tecnologie insieme a Enrico Pagliarini. Con il gastronauta invece parliamo di Milano. Come sempre, tutte le uscite al cinema del fine settimana e partiamo subito col cinema con grandi, grandissimi ospiti. I'm back! La riforma ha permesso al collegio dei docenti di creare una nuova sezione. Con classi meno numerose si può lavorare meglio, soprattutto in funzione della maturità. Russo! Russo! Una classe un po' molesta. Sì, batti a sedere, vai. Guardi, è più facile insegnare ai carcerati. Dai ragazzi, Dante, famoso, grazie a Benigni. Tutti avevano perso le speranze. Non proprio tutti. Fatelo tutti, fatelo tutti. Che vi dicevo? Non è completamente diverso il mondo visto da quassù! E avete segato la cattedra. 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli. Muore Berlinguer, Maradona al Napoli. Io sempre col pallone in mano, 7 su 7. Piedi nudi sull'asfalto tra le vie strette. Un film in sala in questi giorni che parla, lo avete capito, di scuola, di una classe molto particolare che si chiama Classe Z. Ed è un film che secondo me aiuterà tutti a incontrare il mondo dei ragazzi e ai ragazzi a riscoprire personaggi che loro amano molto e poi capiremo perché. Io farei un po' tipo l'appello. Abbiamo 3 studenti. Viola. Che è Alice. Pagani. Ricky. Enrico Etiker. Roberto. Roberto Lipari, che sono il rappresentante degli studenti, quindi di Viola e di Ricky. Abbiamo un professore. Sì, professor Andreoli, sono Andrea Pisani, grazie a tutti, ciao. E poi abbiamo quello che non è un preside, ma è un regista. Salve a tutti. Allora, Guido Chiesa, Guido, com'è stata il tuo incontro con questo Classe Z? Perché è un film molto particolare. Beh, diciamo che prima di tutto viene una richiesta a Colorado, pensate a un film sulla scuola, pensiamo che sarebbe ora di fare di nuovo un film alla scuola. Ma questa volta dal punto di vista dei ragazzi, non dei professori, non degli adulti, non dei genitori. E secondo incontro con un portale che Colorado ci mette in contatto, un portale che si chiama Scuola Zoo, che da una decina d'anni lavora con il mondo della scuola, con il mondo dei giovani. alcuni milioni di persone che lo seguono, e allora abbiamo chiesto: fateci un elenco di quelle che sono le tematiche più ricorrenti nei vostri, nei post che ricevete, nei commenti, nelle mail. Quali sono le tematiche che più attraversano la testa degli studenti italiani d'oggi? E al primi tre posti c'erano tre cose che conoscevo molto bene, spiegherò perché. Uno, non ci sentiamo stimolati e valorizzati dalla scuola. Due, la scuola è noiosa. Tre, troppa enfasi su voti, interrogazioni, verifiche. Tutte cose che da anni dicevano le mie figlie, in particolare quella più grande che adesso quest'anno fa la maturità, e me lo dicevano. Io come genitore ci credevo poco. E poi, toccando con mano, che era quindi il sentire comune una grossa parte degli studenti italiani, ho detto: beh, qua c'è materia per raccontare qualcosa. Per quanto riguarda invece il professore ha come mito, questo lo possiamo dire, il grande professore dell'attimo fuggente. Possiamo dirlo. Possiamo dirlo, insomma, non si svela nulla della trama. Tu hai meno di 30 anni, sei... Sì, grazie, li faccio fra un mese, ma sei carino. Ah, vedi? Vabbè, ma ancora... C'hai preso. 30 sono ancora pochi. Che impressione ti ha fatto essere già dall'altra parte della barricata in un film? Sì, ma mi ha fatto molto effetto, perché io ho iniziato a girare il film il giorno in cui usciva un altro film dove ero un completo idiota che guidava macchine non sue e le sfasciava case, che era i babysitter. E quindi io in un secondo mi sono accorto di essere diventato un ometto, e quindi ho dovuto fare questo professore che per fortuna però era dalla parte dei ragazzi, quindi in qualche modo è stato un parto in acqua, perché avessi dovuto fare un professore alla Guido Chiesa mi era più difficile. Invece cosa vorrà dire questo? Non lo so. No, è stato molto bello, perché sto crescendo, mi fa piacere, e anche in un lavoro come il nostro, comunque vedere di avere cercare di avere un ventaglio più aperto di colori che si possono trasmettere è sempre un bene, quindi spero di essere stato credibile. Poi del resto stai stempiandoti. Sì. Hai la panzetta? Sì. No. Sei... Vabbè, ma la radio non si dice. Alla radio non si dice. Non è vero. Ma non è vero. Ma non è vero. Ma già parla di parto in acqua. Già è prossimo alla paternità. Beh, però i ragazzi, secondo me, si sognano un prof stile Pampers. Sì, dai. Spero di sì. Dico Pampers per i non ragazzi che fossero all'ascolto. Non mi sto riferendo ancora al parto in acqua. Mi sto riferendo al duo. Sì, non solo. Pannolini al duo. Hai fatto bene perché col mio nome di battesimo mi conoscono i relativi familiari e basta, quindi hai fatto... No, bene. Dai, ormai ti si conosce anche come attore tout court. Però Andrea, è ovvio, per me che... è pronto a fare il passo. Io ho veramente subito, nel momento in cui abbiamo iniziato a scriverlo, ho detto ai produttori e ai co-sceneggiatori: questo è Andrea Pisani. Penso che Andrea era pronto, penso che sia pronto per fare ulteriori passi verso ruoli anche più adulti, più, se vogliamo, anche più con più sfaccettature. Tutti lo conoscono come comico, come comico televisivo, comico del web. Secondo me ha uno spettro di recitazione che gli può permettere oggi di fare il protagonista romantico, brillante, cose che non ci sono molto in Italia, giovani in grado di fare entrambe. Ecco. Non è neanche scontato, perché adesso sembrerebbe la ricetta per un film prendere i personaggi famosi. Un tempo si prendevano quelli televisivi, adesso si prendono quelli televisivi e della rete. In questo film, dobbiamo citarla, c'è anche Greta Menchi, che è proprio uno dei miti dei ragazzi. Però non è scontato che quello sia una garanzia di successo, soprattutto non è scontato che si possano far recitare. Poi l'abbiamo visto negli ultimi anni in Casa Colorado, non solo, i follower non sono necessariamente biglietti venduti. Poi personalmente posso, se mi si permette, da un lato, vabbè, io non farei mai un film perché mi impongono un attore. Tutti sono stati provinati, io tra una storia e l'altra avrò visto 100 persone che sono popolari sul web e ne abbiamo scelte solamente due nel film, perché erano giuste per il ruolo. Io non so se Greta oppure il Pancio faranno altri film con me o con altri, penso di sì. So che per questo film erano giusti. Dall'altro... Tra l'altro bravi, lo dico. Io... Grazie. Sono rimasta... No, mi sembra ingiusto dire che sono rimasta stupita come se fossi prevenuta, però bravi. Beh sì, la prevenzione è anche legittima, perché abbiamo visto negli ultimi anni tentativi che non hanno funzionato e quindi la prevenzione è legittima. Anche per le carie, giusto? Me ne vado, me ne vado. Perché prevenire si sa. Anche per i parti in acqua. Posso dire però una cosa, qua mi faccio un piccolo sfogo. Nel momento in cui vediamo che il nostro cinema, per ragioni che non è inutile stare a elencare, le conosciamo bene, sta andando malissimo in generale, qualunque tentativo per cercare di far sì che qualcuno si riavvicini al cinema, perché no? Io sono juventino, faccio outing tranquillamente, ma metterei in un film Totti, Insigne e non lo so, Gabigol, pur di far andare la gente al cinema, pur di far lavorare Gabigol che non fa niente la mattina alla sera, cioè Roberto Lipari non è capo, no. No, veramente io da questo punto di vista non ci vedo nulla di male. Che impressione vi fa pensare che ci saranno dei ragazzi che lo vanno a vedere pensando che tra un paio di mesi toccherà loro? Ora non voglio fare la pubblicità a progresso della situazione, però sicuramente è un film che in toni leggeri comunque sia un messaggio lo manda, e se un giovane X sicuramente poi si pone le domande giuste ne viene fuori, nonostante che sia un film sicuramente molto irriverente e esuberante per larghi tratti, sicuramente se uno poi fa una riflessione con se stesso troverà sicuramente un bello sprone, un bello stimolo in questo film per affrontare gli esami. Sì, una cosa che a me piace dire è che loro alla fine nel film studiano insieme, perché è bello studiare insieme, darsi una mano, aiutarsi, anche passare i compiti. Io non me lo ricordo, ma siccome tuttora, dopo tanti anni, ancora frequento il mio compagno di banco e ci sentiamo quasi tutti i giorni al telefono, lui sostiene e racconta a tutti che io non passavo i compiti, ma non è vero. È una secchiona. Lo dico alla ma radio. Ma sei venuto alla Radio 24? Secchioni perché la Radio 24? No, ma perché io ero convinta di sbagliare, quindi ma se non lo passavo è perché dicevo era tutto sbagliato. Questa è una scusa. No, ma te lo giuro, è vero, come è vero. Stiamo condividendo i microfoni e tu c'hai quello l'unico diverso, guarda. Sì, è vero, sono proprio una secchiona. No, dai. Rimanete ancora un po' a farmi compagnia. Ultima domanda, cosa vorreste che si portassero a casa i ragazzi che vengono a vedere il film? Proprio i liceali, che uscissero dal film con quale, non voglio dire insegnamento, però con che cosa dentro in più? Ma io, per me, la cosa più bella del film era la prima esperienza che facevo di set. È stata bellissima l'aria che si è respirata, poi anche se non ho sempre recitato con tutti, però si è creata un'aria, un'atmosfera tale che secondo me se riuscisse a passare attraverso lo schermo comunque diventava il messaggio chiave del film, cioè quello di stare insieme, prenderebbe una forma perfetta, quindi spero che arrivi questo a chiunque lo guardi, questo dal mio piccolo punto di vista. Ma pensavo che stessi parlando di tutt'altro, poi l'hai ripresa in sì, finale, sì, no? No, il suo pensiero era chiaro, no, dovevamo solo capirlo noi. Sì. Come è stata la tua esperienza? No, sì, io sono d'accordo, nel senso che sicuramente c'è un forte sentore di coesione, di unità, è un film che raggruppa, che non divide, cerca di portare assieme le cose. E poi è bello perché secondo me lega sempre l'ironia con poi uno spessore e una volontà. Io spero che un ragazzo esca dal film divertito, sapendo che può avere sempre tutti gli aspetti freschi della sua giovinezza, ma anche avere determinate responsabilità date dalle incombenze della crescita. Viola lo dice chiaro e tondo, non bisogna sentirsi soli durante l'anno, e soprattutto dice che sicuramente fare gruppo aiuta, ma soprattutto sapersi scusare, perché si possono fare degli errori, ma poi bisogna prendersi le proprie responsabilità, e lei infatti nel film è quella tra tutti che si prende le responsabilità di tutti gli altri e va a chiedere scusa al professore per un torto che non è stata neanche lei personalmente a fare. Io spero che loro capiscano questo messaggio, perché per me è stato molto importante, soprattutto nei miei anni di studio, capire questo. Professore? Ma io allora mi schiero dall'altra parte, cioè nel senso i ragazzi si devono portare qualcosa, ma magari anche qualche professore andrà a vedere il film. Vabbè, spero di sì, perché magari... Sì, perché parla anche di loro, e magari qualcuno può portarsi a casa una visione del suo lavoro un po' diversa, e adesso non significa di adottare i metodi di Robin Williams, però significa che di capire e comprendere che c'è anche quella possibilità lì, e quindi magari di ammorbidirsi un po', perché sennò di professori classici ne abbiamo sempre tanti, forse troppi, perché qualcuno ci sta, però io personalmente li avevo tutti proprio rigorosi, normali, cioè pallosi, che non sta ringraziando i suoi professori, praticamente. No, non è vero, non è vero, perché servono quelle figure, perché a me sono serviti anche quelli, anzi di solito si dice sempre che sono quelli che poi ti formano, è vero, però uno anche un po' più amico, un po' più che ti capisca gli interessi magari anche della tua vita e non solo di quanto hai preso, ci sta, magari. Guido. Sì, Andrea mi ha tolto le parole di bocca rispetto a quello sì, che gli ha... Sì! Quello che gli adulti possono portarsi a casa. Io mi auguro che anche genitori, insegnanti, adulti, magari o anche semplicemente persone che hanno voglia di vedere un pezzo della loro vita, si portino a casa questo che ha detto Andrea. Non Robin Williams, non famolo strano, ma quello che dice a un certo punto il professor Andreoli, cioè guardare in faccia queste persone chiamate studenti, che sono esseri umani prima di tutto. E dal punto di vista dei ragazzi dico semplicemente, a me la scuola non mi ha lasciato moltissimo in termini di scuola, però io ho fatto un incontro con un professore che non era un mio professore, era un supplente in un'altra sezione, che mi ha fatto innamorare del cinema. Ogni momento della vita è un'occasione per poter imparare qualcosa, per poter crescere, talvolta in maniera del tutto casuale. Quindi questi 5 anni o quanti ne potete fare che avete a disposizione, fateli, godeteli e non chiudetevi. Non chiudetevi soprattutto con i vostri compagni che vanno meno bene a scuola, aiutateli, perché talvolta sono proprio loro quelli che emergeranno nella vita. Ah, verissimo. Classe Z no. Al cinema, grazie momento, a tutti. Grazie. Sta parlando di noi. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Il sabato del villaggio. Allora, ve l'ho promesso, anche questa settimana regaliamo 5 coppie di biglietti per le date di Gegè Telesforo e UNICEF per il tour italiano per il progetto Sounds for Children. Abbiamo sempre biglietti per le 2 date di Roma e di Milano. 5 aprile Roma, Auditorium Parco della Musica. 8 aprile Milano, Blue Note. Allora, come fare per aggiudicarvi queste 5 coppie di biglietti? Il numero è 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Mandatemi. Allora, scrivetemi così: la canzone che vi ha cambiato la vita e perché? Voglio sapere qual è, ma voglio sapere soprattutto perché. Poi, se vi fidate, scelgo io. L'altra settimana ci sono stati veramente dei messaggi molto molto molto carini. 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Adesso invece è il momento di dare il benvenuto al nostro gastronauta, così. Si ricorda questa vecchia canzone bellissima, Birdland Day, Weather Report, ma soprattutto se a qualcuno come a me, quando partono queste note viene subito in mente la città di Milano, perché questo era era la soundtrack, era la colonna sonora di un famosissimo spot, quello della Milano da bere. In questi giorni Milano sta cominciando a prepararsi per dei giorni di grande festa, che sono quelli del Salone del Mobile. Tra l'altro, nella prossima ora, ve lo anticipo già, parleremo del fuori salone, cioè di tutti gli eventi collaterali, e scopriremo un po' come orientarsi, perché non è facile. Avremo un po' qualche indicazione per sapere come vivere la città di Milano la prossima settimana, insomma, nella quale batterà veramente un cuore molto, molto agitato, che è quello del Salone del Mobile. Ma appunto, in tanti arriveranno a Milano la prossima settimana, e quindi perché non chiedere qualcosa su questa Milano in cui si mangia secondo me molto bene. E ovviamente chiamiamo in causa il nostro gastronauta. Ciao Davide, Davide Paolini. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, devo a te dire viene che... in mente subito quello spot quando senti questa canzone, no, quella della Milano da bere, era famoso, sincero, non te lo ricordavi? No, però sai, Milano ormai è diventato sia bere che mangiare, perché ormai ci sono delle vie che sono diventate mangiopoli, è una cosa veramente incredibile. Io non so fino a quando durerà questa baldoria delle aperture. Ci sono anche tante chiusure, però devo dire che Milano è un cantiere soprattutto in questi giorni. Già da ieri è cominciata la frenesia, già da ieri vedi davanti ai ristoranti, ai bar, scaricare montagne di bibite, montagne di cibo, pronti per questa settimana che sarà una settimana di fuoco. E devo dire che nei mesi scorsi veramente Milano si è aperto un po' di tutto. Diciamo che negli anni passati, io l'avevo già detto, era diventata la capitale delle hamburgerie, ne erano state aperte, mi sembra nel 2015 eravamo già a 99-100, oggi però ogni giorno cresce il numero delle botteghe del ramen. Poi abbiamo già spiegato in una precedente trasmissione, ma poi lo rispiegheremo anche, e di matcha o matcha, come si dice, di caffè. Quindi stiamo diventando un po' il Giappone trasferito a Milano, e è vero, non ci sono solamente tanti nuovi matcha o tanti nuovi locali dove si mangia ramen, però sicuramente diciamo che il Giappone sta imperversando. Allora io ho pensato di per chi non avesse sentito la nostra puntata sul ramen, molto bella, ci sono tutti i podcast ovviamente sul sito radio24.it, ricordiamo che il ramen è quello che io chiamo lo zuppone, cioè quella zuppa giapponese in cui ci possono essere moltissimi ingredienti, e in questi ristoranti si possono anche scegliere quasi uno alla volta. No, diciamo che addirittura ci sono quattro tipi di brodo, e io proprio voglio iniziare a dare un elenco di ristoranti, locali da segnare per chi arriverà in città e vuole magari andare in qualcosa di nuovo. Il primo ristorante che si chiama Super di Casa Ramen. Allora io nella precedente trasmissione avevo parlato a lungo di questo italiano che si chiama Catalfamo, che aveva conquistato Tokyo al punto che gli avevano fatto aprire locale a Tokyo nel Museo del Ramen. Ebbene, lui ora ha aperto, oltre Casa Ramen che ha nella zona dell'isola, ha aperto Super di Casa Ramen, dove si mangia non solo il ramen, ma tanti altri piatti veramente squisiti, a cominciare dalle costine per finire a delle insalate giapponesi, ancora a delle quaglie panate, quindi tutta una serie di piatti completamente nuovi, ma veramente di grande livello. Chi volesse assaggiare il ramen, questo è il posto giusto, ma ce ne sono tantissimi, devo dire, a Milano. Un altro posto che segnalo è la Bottega del Ramen e Tokyo Table, che sono in via di Genova, anche questi aperti recentissimamente, quindi stiamo a partire proprio Accidenti, c'è un fischio incredibile, non so se ci sente ancora il nostro Davide Paolini, proviamo a capire se lo dobbiamo richiamare. Io guardo, sto qua. Sto parlando da un fisso, quindi... Ecco, no, ma è successo qualcosa di stranissimo, io sono rimasta un po' assordata, spero non i nostri... Un'interferenza aliena c'è o di giapponesi... che vuole sapere dove andare a mangiare a Milano. Esatto, allora di giapponesi che vogliono ci stanno ascoltando per sapere dove si mangia bene, certo, a Milano. Eccoci, Davide. Allora, io direi di partire dalla colazione, di dare qualche indicazione. Una novità è il Moleskine Café, dove in Corso Garibaldi, dove sono abbinati gli acquisti di appunti, questi quaderni di appunti famosissimi, certo. Però c'è un bar completamente nuovo dove ci si può sedere, si può attaccare alla spina del computer, c'è wifi e si possono fare delle ottime colazioni. Ma io vi do anche una colazione vecchia, perché è anche giusto dare qualche altro locale per chi è la prima volta a Milano. Io vi indico una pasticceria caffè che si chiama Cookie, vecchio storico, con anche i tavolini fuori, in questi giorni di sole si sta benissimo, e quindi è un indirizzo, vi do un nuovo e un vecchio. Poi per proseguire, dopo aver dato questo, magari a mezzogiorno si mangiano di solito dei panini, e allora io vi do un nome nuovo, anche questo, che si chiama Morso, è in una burgeria gourmet, quindi nuovissima, vi do tutte cose recentissime, poi quando sono vecchie vi dico che sono del passato. Vi do Morso come locale molto interessante, oppure chi vuole andare a prendere un tè molto particolare con tutto il rito, il Matcha Caffè in via Crispi, anche questo è una chicca interessante. poi saliamo, andiamo magari a prendere un aperitivo, un aperitivo. Allora io vi do un vecchio posto, però vi consiglio di andare in via Sarpi, che è la Chinatown, però in via Sarpi c'è le cantine Isola, forse uno dei pochi locali che non è, diciamo, di proprietà cinese, dove c'è veramente una varietà di vini italiani incredibili. È un posto di grande riferimento a Milano, dove si può bere da uno champagne, diciamo, champagne di quelli Krug Crystal, per scendere invece a uno spumante di cui per tutte le tasche. Quindi la cantina Isola, secondo me, è un posto che per chi viene a Milano, magari la prima volta, da andare a visitare. E proseguendo sempre per quanto riguarda gli aperitivi, possiamo andare al Botanical Club in via Tortona, dove è anche un, diciamo, un luogo da andare per il dopo cena, però si può anche mangiare, e qui si mangia il poké. Il poké è un, diciamo, un pesce crudo havaiano, e quindi è un misto, è basato sul pesce crudo, però questo poké arriva dalle Hawaii, ormai ha preso in tutto il mondo e ovviamente ha preso anche a Milano. Poi ancora per un aperitivo da Vermù. Vermù è un locale, ve lo dice la parola stessa, è un locale nato, diciamo, sulle ali del boom in questo momento del vermouth, quindi qui si possono bere tutte le tipologie di vermouth, si possono bere tutti gli aperitivi a base di vermouth. Poi ancora, se volete mangiare uno spuntino, c'è ora un localino piccolissimo che fa toast molto particolare, anche questi arrivano da molto lontano, arrivano dalla California, si chiama Fancy Toast. Ah, di questo ho sentito parlare recentemente, è molto fotografato su Instagram, perché sono molto carini i toast colorati, quindi è una grande star su Instagram, come il matcha caffè, entrambi grandi star su Instagram. Sì, diciamo che sono bellissimi da vedersi, io vi invito ad andarli a vedere magari dalla vetrina, e poi, attenzione, non sono così straordinari, sono andato oltre, mi spiace essere andato oltre. Bene, un altro posto dove mangiare qualcosa di veloce, però di grandissima qualità, in via Pontaccio c'è un posto che si chiama Mo di Puglia. Mo di Puglia, ve lo dice la parola stessa, che ha modo della Puglia. Ebbene, qui ci sono tutte le specialità pugliesi, soprattutto salentine, e credo che ad esempio le melanzane alla parmigiana o le orecchiette al pomodoro o anche con le verdure sia un piatto veloce a mezzogiorno, che è molto buono, di fatto di qualità, fatto sul momento e non con costi veramente eccessivi, quindi è un posto da tenere, da segnarsi magari sul taccuino. E sempre da mangiare cose veloci, un altro aperto da pochissimo, Frien en Fruye, che ebbe tanto, diciamo, successo durante l'Expo, è un posto dove si mangiano, chiamiamo dei fritti e dei panini napoletani, sudisti, chiamiamo così, di tutto il sud, e in via Spontini questo. Via Spontini, io lo ricordo ai non milanesi, è un angolo che immette molto vicino a Piazza Duomo, quindi i turisti passano, dove c'è veramente lo street food milanese, perché c'è Spontini Pizza, Frien en Fruye, poi c'è Luini con il panzerotto, e poi ci sono, c'è la torta fritta di zia Ernestina. Quindi lì veramente c'è un po' il clou dello street food milanese a ridosso del centro, e questa è veramente una peculiarità che Milano, che appunto diciamo accetta tutti. Ci vuole un minimo di pazienza a volte, perché ci sono un po' di file, no, però vale la pena. Io direi molta pazienza, ecco. Molta pazienza, perché veramente è molto battuto. Poi in 5 giornate addirittura è nato anche questo recentissimamente, un locale che si chiama Mi Scusi. Non è che non vi danno da mangiare, attenzione, non è che si scusano perché magari il mangiare è cattivo, non vi danno da mangiare, semplicemente perché è un po' un posto di fatto di tutto basato sulla pasta fresca, diciamo la pasta fresca, è servita con clienti, con condimenti vari, quindi a vostra scelta. Anche qui un locale veloce. Poi arriviamo alla pizza, perché Milano ormai è diventata la capitale della pizza. Chiudiamo con le pizze, perché tanto poi la gente non ha tantissimo tempo. Mi pare la pizza sia perfetta nei giorni del Salone del Mobile. Ecco, infatti io non ho dato ristorante, ecco, ho dato infatti, molto veloce così, perché è rutilante quella settimana. Chiudiamo con le pizze. Allora, le pizze io vi do subito un posto che si chiama Berberè. Berberè è una pizzeria partita in Emilia, poi si sta, diciamo, sviluppando in tutta Italia, è arrivata anche a Milano con grandissimo successo. Poi vi do ancora un'altra pizzeria con i cocktail, che è stato un po' il boom mesi fa, anzi qualche anno fa a Milano, che si chiama Dry. Dry ora c'ha un Dry 2 aperto 2 giorni fa, quindi anche questo diciamo nuovissimo, e qui si mangia la pizza e si bevono anche dei cocktail. Poi di pizzerie ce ne sono tantissime altre, perché ha aperto anche uno dei re napoletani che si chiama Sorbillo, e quindi anche Sorbillo è a Milano nelle vicinanze di Piazza Duomo. Credo di avere dato abbastanza. Io, sai che io per prima scaricherò il podcast, perché siccome non sono riuscita a segnare tutto, poi mi segno tutto perché la prossima settimana, insomma, qualche giretto per il Salone del Mobile me lo faccio anch'io, e quindi spuntini, aperitivi, mi concederò qualcosa. Davide, sei sempre prezioso. Bene, bene, grazie. Allora, e buon salone a tutti coloro che arrivano a Milano, abbiate pazienza perché veramente sarà una gran bolgia. Sì, ci sarà di tutto, ma è sempre molto divertente. Grazie a Davide Paolini, ci ritroviamo il prossimo sabato. Ciao Davide. Ciao. Adesso io aspetto Enrico Pagliarini, perché questa volta non è collegato da un luogo misterioso, ma è qui, lo intravedo già con le cuffie che sta per entrare in studio. Diamo una piccola pausa, poi saremo insieme a lui per parlare di tecnologia. Il sabato del villaggio. Aspettate che sto twittando la foto che ho appena fatto durante la pausa per anticipare, ecco qua, il tema che stiamo per trattare. Allora, prima di trattare il tema, prima di introdurlo con un pezzo che uso sempre quello, ma mi piace tanto, vabbè, tra poco lo sentite, voglio ricordarvi che vi stiamo regalando i biglietti per le 2 date di Gegè Telesforo. Allora, le 2 date sono quelle di Roma e di Milano. Abbiamo il 5 aprile, oggi facciamo il pesce, il 5 aprile e l'8 aprile. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Voglio sapere la canzone che vi ha cambiato la vita e perché. Ne stanno già arrivando molte e sarà difficile scegliere, però magari scriveteci anche se preferite Milano o Roma, così poi vi contattiamo anche per la data giusta. Ci sono da regalare 5 coppie di biglietti appunto per questi concerti di Gegè Telesforo. La scorsa settimana sono arrivati un sacco di messaggi, adesso però apriamo il capitolo delle tecnologie così. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Ma che pezzone era questo Hotline Bling? Io ogni volta che parliamo di telefonini lo tiro fuori perché mi piace tanto. I used to call you on my cell phone. Ti chiamavo col mio telefonino, poi ho cambiato telefonino. Bella canzone, però è un po' una canzone antica, perché già antica, parla del telefonino. Beh, ma cell phone, una roba che non esiste più. No, cell phone, doveva dire I used to call me on uno smartphone. Smartphone. Chiamiamo Drake, glielo diciamo. Sì, senti, Drake, devi dire smartphone e non cell phone. On my smartphone. Allora, ho già postato la foto sul mio account di Twitter, @MartaCagnola, perché Enrico Pagliarini ha il telefonino nuovo. Sì, sì. Bello anche. No, molto bello. Allora, io immagino questa scena. Sede di Samsung, uh-huh, in Corea del Sud. Uh-huh. Riunione tra i vertici, forse una riunione anche molto affollata, con il capo della telefonia mobile, che tra l'altro si chiama DJ Co. Oh, è yeah, un tipo molto smart, molto smart, e dice: ragazzi, qui non si deve sbagliare. Ed effettivamente, almeno le premesse ci sono tutte, poi proveremo e vedremo nel corso delle prossime diciamo settimane. Diciamo che ultimamente sì, un paio di robine erano andate un po'. Samsung ha avuto dei problemi sulle batterie, su, devo dire, poche batterie, però visto che non si sapeva bene il motivo per il quale alcune di queste batterie dei Note 7 prendevano fuoco, adesso è un po' esagerato dire così, cioè non è che esplodevano, però in alcuni casi è successo che facessero fumo e quindi molti dicevano prendono fuoco queste batterie. Insomma, hanno studiato, hanno capito qual è il problema e hanno risolto. Devo anche dire che I problemi di Samsung sono stati anche di altro genere su altri terminali non smartphone, ad esempio lavatrice hanno avuto qualche problema, non ultimo anche il caso di corruzione che ha coinvolto la presidente, diciamo, della Corea. Insomma, l'immagine dell'azienda un po' era appannata, come si dice in questi casi, anche se poi sui conti non si è fatto sentire, si è fatto sentire un pochettino ma non tanto. Insomma, si sono messi insieme, hanno lavorato, hanno ritardato un pelo rispetto alla tradizione, perché normalmente il nuovo telefono top di gamma di Samsung usciva in occasione del Mobile World Congress, quindi siamo a cavallo tra febbraio e marzo. Qui invece siamo alla fine di marzo, il telefono uscirà sul mercato il 28 di aprile, l'Italia è compresa tra i paesi in cui uscirà il telefono, e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Allora, dal punto di vista del design, Samsung aveva già dimostrato una capacità di design quando presentarono l'Edge, ricordi? Questo telefono con gli angoli smussati. Che io all'inizio dicevo, ma cosa servirà mai? E invece effettivamente è più bello. Forse serviva per prepararsi. Perché anche dal punto di vista produttivo ci vogliono tecnologie piuttosto sofisticate. Allora, una prima tendenza che probabilmente vedremo sui telefoni di domani, quindi Samsung S8 e S8 Plus, che sono i due smartphone che sono stati presentati questa settimana e che usciranno appunto sul mercato alla fine del mese, tra circa un mese, hanno questa caratteristica che non hanno bordo, cioè praticamente la parte frontale è tutta display, è tutta schermo, quasi tutta. Non c'è la cornice. Non c'è la cornice, senza bordo. E questi bordi un po' smussati, però devo dire, dal punto di vista del design, fatto molto bene. A questo punto uno si potrebbe domandare, quindi non c'è più tasto. Noi siamo abituati che sugli smartphone c'è il tasto centrale. Certo. Allora, il tasto effettivamente non c'è, esiste un sensore di pressione nella parte bassa, quindi è un tasto virtuale. Cioè dove eravamo abituati a avere il tasto del Samsung, basta che premi lì. Sì, anche degli altri telefoni, l'iPhone e altri telefoni hanno il tasto centrale. Quindi tasto per la home non esiste più fisico. Il sensore, sappiamo che su molti telefoni oggi il sensore per l'impronta digitale... Sì, perché io lo sblocco con l'impronta digitale. Esatto. E l'hanno messo dietro. Quindi uno deve usare magari l'indice. E non il pollice. Però uno può anche girare la mano e usare il pollice, no? Però per ovviare a questo, non so se chiamarlo problema, perché è una soluzione diversa da quelli dai telefoni che conosciamo oggi, ci sono altri modi per sbloccare il telefono. Noi consigliamo sempre di fare in modo che il telefono si blocchi e venga sbloccato o con il PIN oppure con che cosa? Riconoscimento del volto, che non è una novità assoluta, ma quasi tutti i produttori stanno investendo in questo tipo di tecnologie, oppure riconoscimento dell'iride. Ok, no, rido per il riconoscimento del volto, perché quando una si trucca molto... No, ma funziona, perché poi funziona, guarda, uguale. Sì, i lineamenti. Okay. No, non si sbaglia, non c'è un volto uguale all'altro. Poi una caratteristica, e anche questo è un trend della telefonia mobile, una caratteristica di questo telefono. Allora, noi siamo abituati oggi ai 16 noni, così come nei televisori. La forma anche della TV. Esatto, grosso modo questo è il fattore di forma, le proporzioni, le dimensioni del display. Qui si sta facendo un passo in una direzione diversa, perché questo è un 18.5 noni, quindi un po' più lungo, non 16, ma diciamo, un po' più lungo. Lo aveva già, 18 noni l'aveva già proposto LG con l'ultimo prodotto che è stato presentato, però questa è una tendenza. Il risultato è che il telefono è un po' più snello e un po' più lungo. Cioè 18 un po' più allungato. Noni è come se fossero due quadrati. Esattamente, uno sopra l'altro. Il telefono, infatti si dice, hanno detto anche dei colleghi, ha uno schermo più grande in un telefono che è un po' più piccolino. Ok, e si tiene in mano con molto più semplicemente, perché comunque è molto più stretto, semplice, è facile da capire, un po' più allungato, un po' più snello verso l'alto, e questo effettivamente è molto ti molto faccio comodo. Una domanda fondamentale, ma il jack per le cuffie? Ecco, perché il siccome jack quando cuffie, abbiamo parlato delle novità di Apple era sempre basta jack per le cuffie, Samsung ha mantenuto il jack audio. Ok. E quindi... devo dire che questa è anche una scelta da un certo punto di vista di maturità che ha preso una strada. Una strada diversa. Una volta Samsung faceva un po' come i cinesi fanno oggi, cioè tutto quello che fanno gli altri lo copiano senza stare troppo a pensare per dire noi ce l'abbiamo, noi l'abbiamo fatta anche noi, bla bla bla. In questo caso la scelta è stata di mantenere il jack audio, dando in, dentro la scatola, nella confezione, anche delle cuffiette della AKG, che è un marchio molto famoso. Perché? Perché Samsung ha comprato una grossissima azienda americana qualche mese fa, pagandola un sacco di soldi, che è specializzata anche nell'audio, e all'interno dei tanti brand c'ha anche AKG. Quindi, sì, detto, nella foto che ho fatto io adesso in studio ci sono, non sono le cuffie quelle in dotazione, quelle no. Nella foto c'è, certo. Ma sono quelle è uno delle paia di cuffie che abbiamo in studio. Sì, sì, sì. Enrico, sono le 15:45 in punto, facciamo la pausa per il traffico e poi facciamo ti chiedo ancora pausa. Qualcosa, sì. Dai, traffico, poi saremo ancora insieme, questa volta in studio insieme a Enrico Pagliarini, a tra poco. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Il sabato del villaggio. Siamo sempre insieme a Enrico Pagliarini, che ha un telefonino nuovo. No, lo sto prendendo un po' in giro, è vero, però quando si presentano questi tipi di modelli che davvero segnano la tendenza, è giusto parlarne per capire un po' cosa succederà in generale nel mondo, sì, della telefonia, anche perché poi le varie case, soprattutto Samsung e Apple, poi si tirano la volata l'uno, certo, sull'altro, sì, sì, sì. Quindi questo non scoppia? No, non dovrebbe, no, dovrebbe. No, allora hanno lavorato sulle batterie, sì, sì. Scherzi a parte. Allora, lato batteria, come sta succedendo oramai da qualche tempo, si lavora soprattutto sull'ottimizzazione del consumo, perché la batteria grosso modo è molto simile come capacità a quella dell'S7, questo è l'S8, okay. Dovrebbe durare di più perché si è lavorato sull'ottimizzazione dei consumi, c'è anche un processore nuovo che è stato inserito. A proposito di tendenze, poi magari ne parleremo sicuramente, Samsung ha inserito una sorta di assistente virtuale che si chiama Bixby, ma anche qui lo cito perché è un trend. Sappiamo cioè la che Siri esiste di Samsung. Esattamente, c'è Siri, poi c'è Google Assistant, Amazon, che non è ancora disponibile in Italia, ha Alexa, che è l'assistente virtuale, Microsoft ha Cortana. Questo è un trend, anche se per il momento i consumatori non sembra che siano così attirati da questa caratteristica. Io mi sono fermata al cagnolino di Windows, quello. Ah, proprio. Sono fermata a quello. Ce l'ha quindi Samsung? Sì, ha questo assistente virtuale che ancora non è disponibile in lingua italiana, arriverà nella seconda metà dell'anno, quindi okay. Gli italiani che lo compreranno o lo usano in inglese o in coreano. Possono usarlo. No? Domanda flash, quanto costa? Allora, stiamo parlando di un top di gamma, quindi certo, stiamo parlando certo. Dei l'ultimo arrivato, quindi sì, probabilmente il miglior telefono oggi sul mercato, o comunque lo mettiamo a fianco dell'iPhone 7, parliamo di 829 a partire da, come le macchine, come le automobili, allora 829 euro per il modello da 5,8 pollici, quindi l'S8, perché esiste anche l'S8 Plus, perché sappiamo che ormai tutti i telefoni vanno in coppia, c'è la versione normale e la versione Plus. Che si dice all'inglese perché lo plus, chiamano no, all'inglese. Oppure plus, sì, sì, più. E comunque quindi più, da 829 in su. Senti, grosso, perché sì, hai scritto in quell'angolo del foglio Kena? Allora, Kena, K-E-N-A, ci tengo a dirlo perché è un nuovo operatore mobile virtuale, cioè una nuova azienda di telefonia mobile. In realtà è un'azienda della TIM. TIM ha lanciato questa novità, se volete cercare e vedere anche le tariffe che applica, si chiama Kena Mobile. Per quale motivo? Allora, perché o verso la fine dell'anno o all'inizio del prossimo anno, non sappiamo ancora, arriverà in Italia un nuovo operatore francese che si chiama Free. Free, questo proviene da un ordine, diciamo, dell'antitrust europeo. Visto che in Francia ha fatto molto successo perché fa pagare molto poco, gli operatori italiani si stanno preparando. E quindi teniamo d'occhio. Teniamo d'occhio. Grazie, sì. Enrico. Rimani con noi, non perché mi muovo. Parliamo di cinema, visto che sei un appassionato cinema. Torniamo su Classe Z, eccoci. Un pensiero, nel momento in cui viene trascritto, diventa letteratura. Una poesia, una dichiarazione d'amore, una canzone anche. Quindi lei sta dicendo che anche una canzone di Justin Bieber ora è letteratura? Certo. Ricky, ma che c'entra? A me, per esempio, Justin Bieber piace tantissimo. Non avevo dubbi. Ma che c'entra? Per me Justin Bieber piace tantissimo. Sì, ma non è questo. Allora, se metti Justin Bieber, io ti prendo il telefono e te lo butto giù dalla torre. Tutto ciò che è stato trascritto è letteratura. Vabbè, pure la lista della spesa, dai. Ma ce la fai a non fare il coglione? Chiarete il linguaggio. Ma secondo te Justin Bieber va a fare la spesa? Cosa ma c'è? Secondo te, Ugo, Justin Bieber può andare a fare la spesa? Non lo so, lo sto chiedendo. Sì, sì, sì, sì, la domanda sì, è sì, no, non fatta a casa. Sì, sì, sì, ma dove va quello? Certi metodi funzionano solo nei film americani. Torniamo su questo Classe Z, ne abbiamo parlato con i protagonisti e con il regista in apertura del nostro Sabato del Villaggio, insomma di questo film con una classe di ragazzi un po' scapestrati che però trovano il loro riscatto in qualche modo. Allora, torniamo a parlarne perché voglio sapere se il nostro Franco D'Assisti ce lo consiglia. Insomma, Franco, intanto una settimana in cui escono un sacco di film. Ciao Franco. Sì, ciao Marta, sono tanti i film che escono questa settimana, ben 13, e molti quelli che vale la pena vedere. Ne parleremo alla Rosa Purpurea, parleremo di Il Permesso, 48 ore fuori, parleremo di Ghost in the Shell, però Classe Z è un film con molti spunti interessanti, magari non perfetto, però che racconta la scuola, e questa sembra essere un po' la denuncia che sta alle spalle di questo film. La scuola italiana sembra non essere pronta a recepire tutte queste schegge di talento che però sono imbrigliate in corpi irregolari, in corpi che non hanno magari appunto la capacità di ascolto, hanno magari storie difficili alle spalle. È un film molto divertente, soprattutto è chiaramente una commedia come chiave, ma che ti apre anche altri spaccati, come quello appunto su un'istituzione come la scuola, che va sempre rinnovata anche da chi la frequenta, da chi ha figli che appunto ci vanno. È anche interessante la scelta che è stata fatta sul cast. Devo dire che mi ha abbastanza impressionato Greta Menchi, che è una star del web, di YouTube, ma che qui nei panni forse di se stessa un pochino, però si dimostra anche capace davanti alla macchina da presa. Quindi è un film, questo Classe Z, in questa settimana piena di cinema italiano, che mi sento di consigliare. Altre chicche? So che ci sono dei film molto, molto carini da segnalare questa settimana. Ci sono alcune chicche effettivamente questa settimana, ve ne voglio segnalare innanzitutto una che arriva dall'Irlanda, si intitola Il Viaggio, The Journey, è un film diretto da Nick Arm con un cast che mette insieme volti, i famosi volti più conosciuti dei nomi, penso a Colm Meaney, a John Hart ovviamente, a Timothy Spall, facce viste anche in grandi colossal da Harry Potter in poi, che qui troviamo nei panni di due politici irlandesi dell'Irlanda del Nord, il predicatore protestante Ian Paisley e il repubblicano Martin McGuinness, che per un caso fortuito, l'assenza di voli per via di problemi meteo, devono intraprendere un viaggio insieme, viaggiando praticamente dalla Scozia per uno storico accordo di pace, e che non sia forse proprio quella macchina che obtorto collo li trasporta insieme verso questi accordi, a far stabilire una chimica fra queste due parti dell'Irlanda che per anni si sono odiate, si sono sparate addosso, si sono demolite con gli attentati, la parte protestante e la parte cattolica. È un percorso verso la conciliazione, molto molto ben raccontato, tra l'altro anche con degli aspetti quasi di thriller, perché l'autista che comanda questa macchina è un ragazzo molto giovane, apparentemente sprovveduto, ma collegato con un auricolare a una sorta di regia, che è quella del governo, che gli dice come far andare questo viaggio. Devo dire, un film molto molto sorprendente, che vi consiglio di provare a recuperare nelle sale cinematografiche italiane. Ultimo consiglio, Franco. L'ultimo consiglio è un altro film europeo molto interessante, molto bello, visto recentemente al Bergamo Film Meeting, dove c'era un omaggio al suo regista Dagur Kari, e la storia si intitola Virgin Mountain, la montagna vergine, ma la montagna vergine in questo caso non è un rilievo orografico, ma è un quarantenne di dimensioni oversize, che deve ancora trovare un po' il coraggio, forse anche per questa fisicità così straripante, di entrare nel mondo degli adulti, insomma, di avere e trovare la sua prima volta. La sua vita è dominata da una routine lavorativa, fino a quando non incontra una donna che in qualche modo lo risveglia un pochino, anche con delicatezza, con dolcezza, la sua vita, e soprattutto gli fa capire di avere una sensualità e una sessualità da poter regalare. E per il protagonista, che si intitola Fusi, è un grande cambiamento. È un film veramente di grande delicatezza, questo Virgin Mountain, che ci dimostra ancora come ci sia davvero una serie di film imperdibili in un cinema europeo che è bello per la sua sfaccettatura, per la sua capacità di andare a raccontare storie veramente le più disparate. E tra l'altro arriva da un regista, questo Dagur Kari, che nel 2003 si era rivelato al mondo davvero con un film che si intitolava Noi Albinoi, la storia di un albino, ed era una commedia strepitosa che aveva stregato anche il pubblico americano. Quindi, come dire, è una settimana di grande cinema italiano, di grande cinema europeo, va un po' cercato sicuramente, non sono quei film che vi saltano addosso dalla locandina del multiplex, però informatevi, guardate sui siti, perché sono davvero film da non perdere. Grazie Franco, l'appuntamento con te dunque dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea e al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il Sabato del Villaggio, la seconda ora. La prima ora è stata ricchissima, vi dico che abbiamo parlato di Milano e torneremo a parlarne per il Salone del Mobile, abbiamo parlato con il nostro gastronauta, abbiamo incontrato il cast di Classe Z, davvero super super carini questi ragazzi, poi abbiamo parlato un sacco di tecnologie e di telefonini con Enrico Pagliarini. Sono molto contenta che qualcuno ci scriva che con Enrico Pagliarini si capisce la tecnologia con parole semplici, è davvero bravo. A prima Non ve l'ho ricordato quando c'era qui lui, ma insomma ricordatevi anche il podcast di 2024 che è assolutamente imperdibile, anzi adesso ci ha svelato che lo chiama Super Podcast perché ci sono un sacco di contenuti speciali. Allora, vi devo subito ricordare invece un altro appuntamento che non è radiofonico, nemmeno elettronico, ma fisico. Noi ci possiamo vedere il 4 aprile all'Aula Magna, edificio U6, piazza dell'Ateneo Nuovo, Milano. Stiamo parlando dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, ma non per vedere me, ma perché io sarò con Alessandro Mannarino, musica sulla frontiera. Alessandro Mannarino incontra gli studenti, ci sarò anch'io insieme a lui, ci sarà Radio 24. Per avere tutte le informazioni su come partecipare fisicamente o virtualmente, perché l'incontro sarà in streaming, basta collegarsi al sito di Radio 24 e ci sono tutte le indicazioni. Quindi musica sulla frontiera insieme ad Alessandro Mannarino, non vedo l'ora, martedì pomeriggio. E poi c'è ancora il nostro gioco 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Allora, sì, è un divertimento, Io voglio sapere quale canzone vi ha cambiato la vita e perché. Voi ci mandate questi SMS e WhatsApp, io scelgo quelli che mi piacciono di più, e non è un concorso, è solo così un gioco divertente, quindi sono giudice unico insieme a Cristian Goldoni. Perché i 5 messaggi che ci piacciono di più riceveranno 5 coppie di biglietti per i concerti di Gegè Telesforo per il progetto Sounds for Children. Ci sono due date, 5 aprile Roma, 8 aprile Milano, quindi diteci se preferite le date di Roma o di Milano, ci sono 5 coppie di biglietti. Nella seconda ora, allora, vi ho già detto che parleremo di Milano, parleremo di Milano per il Salone del Mobile, sapremo tutto del fuori salone. Parleremo di serie TV perché abbiamo intervistato una grandissima star, parleremo di Better Call Saul e abbiamo incontrato il protagonista Bob Odenkirk. Ci saranno i libri del momento con Alessandra Tedesco, ma cominciamo parlando di consumi. Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera. We'll be right back.

che il negozio in Alleggio non può darti, anche solo incontrare una persona di un'altra cultura proveniente da un altro paese col quale poter condividere la tua passione per lo sport, poter parlare della tua tavola da surf, perché incontri una persona che sa di che cosa stai parlando e ti racconta come lui cavalca le onde in Australia. È fatto tutto parte di un'esperienza che poi confluisce in un'amicizia che il negozio di noleggio non può, per ovvie ragioni, essendo un'attività commerciale, non può regalarti. Gli utenti possono contare su un'assicurazione, avete previsto anche questo per l'attrezzatura? Sì, tutti i prodotti sono coperti sino a 3.000 euro, quindi qualsiasi danno viene coperto immediatamente da Sherwood. Beh, insomma, mi piace molto l'idea del non lasciar parcheggiata la bicicletta che non usiamo. Magari la bicicletta la usiamo un po' di più, però il windsurf... Condividiamo. Assolutamente, magari sono nei garage delle nostre case di vacanza, non le usiamo tutti i giorni, oppure le usiamo solo in agosto e a giugno e luglio, no? Insomma, mettiamo a reddito quello che abbiamo, non compriamo tutte le stesse cose, condividiamo appunto. Sono d'accordo, ormai è un po' la parola d'ordine in generale, Luisa. Assolutamente sì. Vorrei concludere questa pagina dedicata ai consumi con il solito consiglio ogni volta al sabato del villaggio, ma ci tengo perché domani è domenica e quindi non c'è essere avere domani pesce d'aprile. No, mi hai fatto uno scherzo, ci sono cascata. Ho visto la tua faccia, veramente. Come? No, detto, ma... invece c'è domani alle 22 bene. Come al solito. Ciao Marta, un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. No, ma io voglio regalare biglietti tutte le settimane perché sono troppo belli i vostri messaggi al 349-238-6666, WhatsApp e SMS. Ditemi quale canzone vi ha cambiato la vita e perché. Vi stiamo regalando 5 coppie di biglietti per le date di Jet Telesforo a Roma e a Milano, 5 aprile e 8 aprile. Diteci anche qual è la data che preferite, poi io farò il giudice e deciderò quali sono i messaggi più belli per regalarvi questi biglietti. Insomma, sono molto molto contenta di questa iniziativa. Adesso però apriamo un'altra pagina del sabato del villaggio perché, come sempre, a quest'ora dobbiamo parlare di libri. Un altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley. Tom, devo bene, se tu le parli in mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene capo di allo più. Allora, questo audio mi fa tornare indietro con la memoria a un film che era Il talento di Mr. Ripley, che era un film che mi era piaciuto molto, che aveva fatto un gran clamore ed era tratto da un libro, ma a questo punto credo di sì, perché lo chiediamo ad Alessandra Tedesco, ma ha detto lei, Il talento di Mr. Ripley. Alessandra, ciao. Ciao Marta, sì, effettivamente Il talento di Mr. Ripley, o meglio, Mr. Ripley è un personaggio creato dalla mente diabolica, possiamo dire così, di una grande scrittrice di gialli americana, Patricia Highsmith. Lei aveva scritto addirittura 5 romanzi con questo personaggio protagonista. Perché parliamo di Patricia Highsmith? Perché è uscita da poco una biografia romanzata scritta da Margherita Giacobino, pubblicata da Mondadori, che si intitola Il prezzo del sogno. È una biografia molto interessante, ho detto romanzata perché ci sono cose vere e altre diciamo verosimili. L'autrice ha pensato che le cose possano essere andate così, certo, che Patricia Highsmith possa aver provato determinati sentimenti e sensazioni ed emozioni. E è stata una vita quella di Patricia Highsmith veramente affascinante, perché lei diciamo era una donna volitiva, indipendente, irriverente, insomma aveva un caratteraccio, aveva anche un senso degli humor molto particolare. Pensa che una volta aveva invitato delle amiche a casa e all'improvviso, così per fare uno scherzo, aveva gettato addosso a loro un topo morto. Insomma, che non io erano... che sono terrorizzata dai topi, beh vivi o morti o X, insomma sì. Comunque fanno una certa impressione. Quindi insomma una donna veramente particolare. Quindi in questo libro Il prezzo del sogno si ricostruisce la sua vita. Patricia Highsmith era anche omosessuale, era lesbica, però diciamo nell'America degli anni 40 non lo dichiarava apertamente, lo dichiarava solo in circoli ristretti. Tant'è vero che Highsmith è stata colei la quale ha scritto sotto pseudonimo il libro Carol, o meglio che viene ricordato come Carol, ma in realtà si intitolava Il prezzo del sale. Presente il film che era stato tratto Carol alcuni anni fa con quell'attrice Marta Meravigliosa, non mi ricordo il nome in questo momento. Kate Blanchett, favolosa. Ecco, esattamente, favolosa. Io l'adoro veramente, anche se il libro insomma, è un po' diverso come sempre dal film. Ma per ritornare alla nostra Patricia Highsmith, aveva scritto nel 52 questa storia d'amore fra due donne, ovviamente sotto pseudonimo. Quindi insomma Patricia Highsmith è un personaggio veramente da conoscere. Aveva avuto una madre dispotica, tant'è vero che nei vari romanzi che scriveva, da cui sono stati tratti dei film, non solo Mr. Ripley ma anche, non so, Hitchcock aveva tratto il film Delitto per delitto da un romanzo dell'Highsmith. Diciamo c'erano questi personaggi di donne piuttosto antipatiche e dispotiche in questi romanzi, che erano poi diciamo l'immagine che Patricia Highsmith aveva di sua madre. E allora Il prezzo del sogno ci racconta tutta questa vita avventurosa, strana, fatta di alti e bassi, ma molto molto interessante di Patricia Highsmith. Bellissimo, a chi lo consigliamo? Beh, innanzitutto a chi ama le biografie in genere, perché anche se si tratta di una biografia romanzata, non come dire pedissequa di fatti realmente accaduti, è sempre affascinante. Poi a tutti quelli che hanno amato i romanzi dell'Highsmith, lei era specializzata in thriller psicologici, perché così possono capire chi era la donna che stava dietro quei racconti. E poi tutti quelli che vogliono leggere un libro piacevole e veramente scoprire il lato privato di quello che è stato un personaggio pubblico. Mi piace molto. Ancora consigli, Alessandra? Marta, qui abbiamo un consiglione, se possiamo definirlo così. Allora, il libro si intitola Tante piccole sedie rosse. L'ha scritto l'irlandese Edna O'Brien, pubblicato in Italia da Einaudi. Erano parecchi anni che la O'Brien non ci regalava un romanzo nuovo, forse 10 se non erro. Lei è una scrittrice insomma anche di una certa età, ha 87-88 anni insomma, ed era diventata famosa con un libro, Ragazze di campagna. Ha scritto anche romanzi anche un po' scandalosi diciamo per l'Irlanda, alcuni sono stati accidenti, addirittura vietati, quindi insomma un personaggio anche qui veramente molto molto interessante. Pensa che di questo romanzo, che ripeto si intitola Tante piccole sedie rosse, Philip Roth, l'americano Philip Roth, ha detto: la grande Edna O'Brien ha scritto il suo capolavoro. Poi ci sono commenti veramente meravigliosi. Il New Yorker ha scritto: straordinario e disturbante. La recensione del Financial Times: memorabile. The Guardian: spettacolare, spietato, ambizioso. Allora, di cosa parla questo Tante piccole sedie rosse di Edna O'Brien? Allora, la storia è ambientata in un piccolo villaggio irlandese, chiaramente c'è una vita monotona, non succede quasi mai nulla, diciamo così. Arriva un uomo dall'estero, insomma uno straniero misterioso, che dice di essere un sessuologo, cioè lui cura i disturbi sessuali attraverso le erbe. Quindi insomma metafora, un guru, un guaritore, sì, un sessuologo. Un personaggio singolare comunque. Un personaggio singolare che colpisce la fantasia di una donna, Fidelma, che è sposata con insomma un uomo più anziano di lei. Lei ama perdersi nella lettura, ma soprattutto nella lettura dei romanzi appassionati, di passione. Chiaramente Fidelma si innamora di quest'uomo, però le cose non sono così romantiche come si potrebbe pensare, perché a un certo punto si scopre che lui è stato un criminale di guerra nell'assedio di Sarajevo. Ah, quindi per questo le sedie rosse? Esattamente, perché appunto il titolo del romanzo si riferisce a quelle più di 11.000 sedie rosse che erano state disposte nel 2012 sulla via principale, sul corso principale di Sarajevo, per commemorare proprio le vittime dei cecchini durante l'assedio. Quindi in realtà assolutamente non è un romanzo romantico, anzi è un romanzo che va a scavare con la punta del coltello proprio nelle emozioni dell'animo umano. È un romanzo veramente forte, questo di Edna O'Brien. E quindi ci hai già detto tutto. Ancora, ancora consigli, Alessandra? Guarda, questo è un romanzo che appena ho finito di leggere ho definito un romanzo vintage. Già la copertina un po' con questa foto in bianco e nero che ci riporta un po' al passato. Infatti è un romanzo vintage. In realtà l'ha scritto un autore giovane, credo che non abbia neanche 40 anni. Lui si chiama chiama Francesco Formaggi. Uh-huh. Il romanzo si intitola Il cortile di pietra, pubblicato da Neri Pozza. Perché l'ho definito un romanzo vintage? Beh, perché racconta, diciamo, una storia del passato in un modo tipico del passato, diciamo un modo quasi tradizionale. Allora, brevemente la storia. È la storia di un bambino, Pietro, che vive con dei genitori in un tempo non ben definito. Si capisce che forse sono i primi del Novecento, forse il primo dopoguerra, in un posto non ben definito in Italia. Il padre è un uomo violento, insomma, che spesso lo picchia. Un giorno questa coppia di genitori decide di dar via il proprio figlio, di metterlo in un collegio, perché evidentemente hanno dei problemi economici, anche certo. Se la ragione in realtà resta sullo sfondo. Questo bambino viene portato via con la forza da un uomo veramente, sai, di quelli brutali, brutti e cattivi, potrei definirlo. Infatti ci sono certe scene che hanno proprio un'atmosfera dickensiana, mi sembra di tornare un po' ai vecchi romanzi. E nel momento in cui arriva nel collegio, Marta, non ti dico cosa succede, perché puoi immaginare violenze di tipo fisico e psicologico di ogni tipo da parte delle suore che gestiscono questo, diciamo, orfanatrofio, chiamiamolo così, questo collegio. Per fortuna ci sono delle piccole oasi di umanità in tanto orrore e tanta violenza, perché per esempio Pietro conosce questo bambino Mario, che è un bambino simpaticissimo, che ne combina di tutti i colori, viene sempre picchiato, viene addirittura frustato dalle suore, però lui replica sempre con un sorriso, perché trova sempre l'aspetto positivo, l'aspetto comico, l'aspetto resiliente quasi della situazione. E poi per fortuna c'è un'unica suora buona, materna, che è Suor Tabata. Insomma, un romanzo che anche questo è un po' disturbante, ecco, devo dire. Questa settimana ci stai andando poco leggera. Ancora. Sì. Ancora, io vedo un altro libro con una copertina che mi attrae molto. Io mi faccio sempre molto così conquistare dalle copertine. Una splendida signora vestita di rosso corallo. Perché? The Woman in Red. Sì. Perché, diciamo, è esemplificativa probabilmente della protagonista di questo romanzo. Il romanzo si intitola La fragilità delle certezze, l'ha scritto Raffaella Silvestri, pubblicato da Garzanti. Se digiti su Google Raffaella Silvestri le foto, ti rendi conto che probabilmente ti ricorda qualcuno o qualcosa, perché lei aveva partecipato a quel programma, quel talent di Rai 3, Masterpiece, quello per diventare scrittore. Ah, ma me la ricordo, sì, ecco, sì, vedi, certo, te la ricordi, certo. Infatti adesso io quando che l'ho cercata con Google, sì, infatti ricordo quando io ho visto la fotografia ho detto, ma io la conosco, e poi mi sono ricordata quel talent, non mi era piaciuto per niente. Invece per fortuna, diciamo, alcuni autori hanno trovato attraverso quel talent la propria strada. E Raffaella Silvestri racconta in questo La fragilità delle certezze la storia di una ragazza, Anna, una trentenne, che si sente sempre un po' fuori posto. Si sente fuori posto in famiglia, a scuola, all'università, ha una relazione con un uomo più vecchio, che tra l'altro è un suo professore, un suo ex professore dell'università, un attore famoso. Insomma, nonostante tutta questa situazione un po' poco positiva, riesce comunque a laurearsi in economia e avvia una startup con un suo compagno di studi, Teo, con il quale inizia una relazione, sai, a volte quelle relazioni un po' ambigue, che non capisci bene che cosa vogliano dire. E poi loro due, diciamo solo che insieme, dovranno affrontare la crisi economica delle start-up. Sostanzialmente, che cosa c'è in questo romanzo? Si racconta la crisi psicologica, ma anche sociale ed economica, dei trentenni di oggi, che si sentono sempre un po' fuori posto e fanno fatica anche a immaginare e a costruire il proprio futuro. Non mi dispiace come idea, saprei anche a chi regalarlo, me lo segno. Abbiamo tempo per un'ultima veloce segnalazione, cosa ci sceglie Alessandra? Guarda, ti segnalo l'ultimo romanzo di Sara Rattaro, si intitola L'amore addosso, pubblicato da Sperling e Kupfer. Sara Rattaro, per intenderci, era quella che aveva scritto Non volare via, Niente come te, Splendi più che puoi. Le sue storie parlano spesso, come dire, di famiglie, amori, affetti, segreti, cose da scoprire. E qui è difficile raccontare la trama, vi posso solo dire che c'è una donna in un ospedale perché ha portato lì un uomo che in realtà è il suo amante, ma non lo può dichiarare perché, insomma, si è sentito male. E nello stesso tempo però il marito è ricoverato nello stesso ospedale perché ha avuto un incidente d'auto quando lei non c'era, E, insomma, non ve lo posso qualcun spiegare. Altro l'avrà portato lì, insomma. Quindi, una storia di relazioni, diciamo, d'amore, di relazioni familiari piuttosto complicate. Bene, sono molto curiosa. Alessandra, mi fai sempre venire voglia di leggerli tutti. Dovrei avere un sacco di tempo, non ce l'ho, però davvero ci metti un sacco di voglia di scoprire queste storie. L'unica cosa che voglio dire prima di chiudere questa pagina del Sabato del Villaggio è dar l'appuntamento al cacciatore di libri. Hai già qualche indiscrezione su quello che ascolteremo? Puntata imperdibile, Marta. Ti ricordi che ti avevo parlato del libro di Teresa Ciabatti, certo, La più amata? Certo. Ecco, Mondadori adesso l'ha candidato ufficialmente al premio Strega e al cacciatore di libri questa sera alle 22, è già andato in onda stamattina alle 6:30, l'intervista appunto a Teresa Ciabatti, poi la trovate anche in podcast. È un libro, come ti dicevo l'altra volta, che fa aggrovigliare le budella, quindi anche l'intervista da questo sono punto di vista. Sono molto curiosa di ascoltarla, me la recupero in podcast perché sono una grande fan di Teresa Ciabatti. Ciao Alessandro, al prossimo sabato! Baci! Il sabato del villaggio. Sono molto molto contenta perché stiamo per parlare di una grandissima serie televisiva e abbiamo anche un ospite per commentarla. Mi rende molto molto felice. Vabbè, comincio a anticiparlo su Twitter, ma non ve lo svelo ancora. Allora, cominciamo con una clip, con il trailer di questa serie TV che sta per tornare. Dai, lanciamo subito questa clip. Mi consegnano la nuova macchina aziendale. In effetti, ti piacerebbe? Le cose girano per il verso giusto. Per meno di un millimetro. Salve signori, io mi chiamo Jimmy McGill e sono un avvocato. In giro si dice che stai alla Davis & Main adesso, brutto figlio di puttana. La tua moralità è ancora flessibile? Se così fosse avrei un lavoro per te. Dove e quando? Allora, questa serie è una serie di Netflix che si chiama Better Call Saul. Insomma, faremo meglio a chiamare Saul in questa situazione. Perché? Beh, gli appassionati già stanno friggendo, perché sta per arrivare una nuova stagione. Come al solito verrà buttata tutta insieme su Netflix e quindi ci sarà gente che perderà il sonno, oltre che il senno, per vederla tutta insieme. Ma cos'ha di speciale, di imperdibile questa serie, che è veramente un grandissimo fenomeno? Prima di incontrare il protagonista, perché l'abbiamo incontrato face to face, su Instagram ci sono le prove. Allora, prima di incontrare il protagonista, io do il benvenuto per la prima volta al Sabato del Villaggio a un grandissimo esperto di TV, ma soprattutto è uno dei conduttori di TV Talk su Rai 3, che è appena finito e quindi è con noi Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano! Ciao Marta, buon pomeriggio. Ma che meraviglia. Siamo quasi ubiqui, appena finita su Rai 3. Esatto. Ed eccoci su Radio 24. Ma come facciamo? Boh. Ma è la magia, è magia. Noi siamo magici. Sebastiano, siamo magici. Allora, Sebastiano, dimmi subito qual è il segreto di Better Call Saul. Perché tutti impazziti per questa serie? Ma guarda, forse il segreto, che è quello che ha catturato tutti noi, io, te e i fan di Breaking Bad, è proprio il fatto che nasce come spin-off, cioè come costola di una delle serie più amate della storia, una delle serie che è stata al centro della cosiddetta seconda età dell'oro della televisione, che è Breaking Bad, che per chi non lo sapesse è stato un fenomeno pazzesco degli ultimi 10 anni, questa storia di questo professore di chimica tristanzuolo del liceo che scopre di avere un cancro terminale e dai a ride. E che cosa decide di fare? Diciamo che come preambolo non era proprio quello più, no? È già difficile quello. Poteva essere una cosa fantoziana, invece è un grande motore drammatico, se ci pensi, perché lui da sfigato padre di famiglia, professore anonimo, così si mette a sintetizzare metanfetamina con un suo ex studente, così un piccolo spacciatore, e da lì ovviamente ne succedono tutti i colori, entrano in contatto con la criminalità eccetera, ma nella seconda stagione entrano in contatto con questo avvocato, questo Azzetta Carbugli, che in realtà è specializzato nel tirar fuori faccio piccoli grandi criminali, che è esattamente Saul Goodman, cioè Better Call Saul, questo avvocato di provincia di Albuquerque, qui è basata poi questo spin-off, questa Better Call Saul. Però ti devo correggere, non sarà, a differenza delle solite cose di Netflix, non viene buttata tutta insieme, no? No, perché perché in realtà in America, negli Stati Uniti, va ancora in onda diciamo in maniera tradizionale, cioè una volta a settimana su un canale via cavo che si chiama AMC, che è un po' come HBO, come la nostra Sky, cioè ancora programmazione tradizionale, appuntamento fisso quel giorno della settimana. Netflix la coproduce e quindi per il resto del mondo, che non sono gli Stati Uniti, la mette una puntata alla volta, quindi la vecchia cara dose settimanale, appuntamento vedi, fisso. Invece già avevo pensato di farmi così l'overdose. Sì. Allora, da cosa partiamo? Partiamo da chi è il protagonista o partiamo, dai sì, partiamo da chi è il protagonista, perché qualche tempo fa siamo stati a Berlino e abbiamo incontrato questo straordinario Bob Odenkirk, che è veramente un personaggio singolare. Allora, lui viene dalla scrittura comica, infatti non ha assolutamente l'aria della star. Intanto sentiamo cosa ci ha raccontato, così, da dove viene l'arte di Bob Odenkirk? I have had a long career of writing comedy in America. Ho avuto una lunga carriera in America di scrittore comico, soprattutto di sketch comedy, ma anche di serie di mezz'ora. Anche altri tipi di show e persino di un film per Netflix, Girlfriend's Day. But many different things, yeah. But with Better Call Saul. Yes, Better Call Saul is a whole other level of Better Call Saul è tutto un altro livello di popolarità, di riconoscibilità, di impatto. Non me lo sarei mai aspettato, ma nemmeno lo ricercavo. Ovvio che qualsiasi cosa tu faccia vorresti avere il pubblico più ampio possibile. Vorresti che lo potessero vedere tutti e magari che piacesse. Non ti dai da fare per rimanere sconosciuto. Ma penso che se ti piace fare molte cose, come accade a me, non hai paura dell'anonimato. Non hai paura di mostrarti a un pubblico più piccolo. Va bene se riesci a rendere felice qualcuno. Vabbè, lui è un tipo molto tranquillo, cioè uno che viene dalla scrittura di sketch comedy, la scrittura appunto di comedy, ma non se la tira per niente come star. Ma di fatto è diventato una star, Sebastiano? Beh, assolutamente, però è vero, a quella anch'io intervistandolo ho notato una rilassatezza e anche un gusto della... così, della chiacchiera anche dietro le quinte, che è rarissima in questi attori, che tu lo sai meglio di me. Normalmente quelli americani, quando li portano in giro per promozione dei loro prodotti, sono impostatissimi, sono una specie di muri di gomma. Lui sarà anche che è arrivato alla fama molto tardi, perché lui è del 62, controllavo adesso la biografia, è un uomo che secondo me neanche 22 ci ottobre più. 22 ottobre, esatto, no, me lo ricordo perché anch'io sono nata il 22 ottobre, ma solo per questo, ecco, vedi. Per questo vedi lo ricordavo, qualcosa li unisce, sì, non sì. Solo la passione per il crimine, certo. No, però è interessante perché da qualche parte, sai, appunto, lui ha scritto per il Saturday Night Live, ha scritto per i Late Night, quindi veramente capisce anche come funziona la scrittura, come c'è. Lui ha scritto un sacco di cose da sceneggiatore che poi non sono mai andati in onda, piloti che non sono andati da nessuna parte, show che sono stati seccati, che sono stati chiusi dopo pochissimo. Quindi secondo me è arrivato davvero a questa fama in maniera del tutto inattesa, ma anche tranquilla, sai, da uomo di quasi 60 anni. Quindi questo secondo me fa anche la sua forza di uomo e di antitipo. Allora, a che punto eravamo rimasti? Allora, abbiamo spiegato per chi non l'avesse mai visto che Better Call Saul, ovviamente i titoli sono in inglese perché non sono mai stati tradotti, così sono, è vero. Una costola di Breaking Bad. Ma in che senso c'è un rapporto tra Better Call Saul, giusto, e Breaking Bad? Cioè il protagonista, come è stato versato da una serie all'altra? Allora, questo è tecnicamente, sai che ormai Hollywood, anche la televisione, ci hanno abituato a non più solo sequel ma anche prequel, cioè diciamo, si prendono alcuni personaggi, alcuni elementi di storia che ben conosciamo e come in Star Wars li si porta alcuni anni prima. Quindi da qualche parte l'idea di Better Call Saul, della serie spin-off di Breaking Bad, è vedere quali sono le origini umane e anche, tra virgolette, criminali del personaggio prima che entri in contatto poi con i nostri due beniamini produttori e spacciatori di metanfetamine. Quindi alcuni anni prima, è ambientata a metà anni 90, tant'è che vediamo ancora vecchi start-up, vecchi cellulari, vecchia tecnologia. Da qualche parte, appunto, sono tutti più giovani, si intravede e si incrociano alcuni dei personaggi di Breaking Bad, non ancora i nostri due protagonisti, però alcuni criminali messicani si sono visti, forse pare che in questa nuova terza serie si vedrà Giancarlo Esposito, cioè il personaggio di colore che gestiva quel fast food che anche era al centro di alcuni dei traffici dei nostri protagonisti. Quindi da qualche parte si strizza molto l'occhio a chi ha già visto Breaking Bad, però si fa un'operazione del tutto nuova, con nuove storie, nuovi personaggi, in un altro asse temporale di uno solo di questi caratteri poi della serie principale. Che è James McGill, si chiama così, vero? Il vero nome dell'avvocato. Esatto. E Bob Odenkirk ci ha svelato che in questa nuova stagione finalmente incontreremo Saul Goodman. Vabbè, insomma, ci ha spiegato lui qualcosa, ma molto poco. Sentiamo cosa ci ha potuto dire. Siamo tutti impazienti perché finalmente, in qualche modo, incontreremo Saul Goodman. Saul Goodman, yes. In a certain way. Sì, in un qualche modo, ma non vi ho detto tutto. Lui, è Saul Goodman. Saul Goodman. It's just not exactly the way you see, but... Solo che non è come siete abituati a vederlo. Ma durante la stagione 3, Jimmy McGill si trasformerà in Saul Goodman in un modo che mi fa sentire molto cattivo. Mi sono quasi arrabbiato quando ho letto la sceneggiatura. È quasi un'esagerazione. Però ho detto a Vince e Peter, ora dovete solo mettergli l'abito elegante, perché è pronto. Certo, nella stagione 3 farà molte cose che sono proprio nello stile di Saul Goodman, crudele e insensibile. Insomma, Sebastiano non ci ha potuto dire niente, di fatto. Cioè sì, io ci provavo in a certain way, in qualche modo, cioè si vedrà, si capirà. Ragazzi, no, è bello, sappiamo, lo spoiler è il vero unico tabù della nostra, esatto, società, dei consumi culturali. Esatto. Gente che uccide per uno spoiler, probabilmente lui è sotto minaccia da Netflix e da AMC, il canale che produce in America, perché non possono svelare nulla. Però è interessante la cosa che diceva, perché se ci pensi, Breaking Bad, la cosa che fa in quelle sei fantastiche stagioni è farti innamorare appunto di questo professore sfigatello, sotto schiaffo sul lavoro, sulla madre, fargli tirare sulla testa, far vedere come in realtà si trasforma in qualcos'altro, prende il controllo della sua vita, così abbracciando il crimine. Però poi si arriva, anche qua, spoiler genericissimo, non vi spaventate perché non ha visto Breaking Bad, si arriva poi a odiarlo. Cioè la trasformazione da uomo per cui puoi empatizzare perché ti ci rivedi nelle tue piccole miserie quotidiane, a mostro assoluto che compie delle azioni molto crudeli. Quindi da qualche parte in queste tre stagioni, la prossima in arrivo di Better Call Saul, si compie un po' lo stesso percorso, no? Dall'empatizzare per il povero, misero avvocatuccio a forse, chi lo sa, magari arriveremo anche a trovarlo odioso e spregevole e a vergognarci di averlo amato, che poi è una cosa bellissima guardando le serie, no? Amare no, qualcuno, ma certo. E poi doverlo odiare, no? Devi liberarti di un pezzo di te da qualche parte. Sì, un po' anche nella realtà, ma insomma, quello un po' meno. Sebastiano, invece volevo chiederti di un'altra serie, se a te piace, perché sta per tornare anche Mr. Robot su Premium Stories. Il secondo capitolo, anzi è tornato l'altro ieri, giovedì 30 marzo, secondo capitolo della serie cult. Sei un appassionato di Mr. Robot? Abbastanza, non mi straccio le vesti come molti, però sicuramente una delle più interessanti degli ultimi anni, anche più, diciamo, più legata anche ai temi della rete, dell'hackeraggio, quindi sicuramente prova a fare i conti con alcuni dei nodi della nostra società, così in maniera più diretta, sicuramente, rispetto anche a queste serie ambientate un po' più nel passato, che sono un po' più forse lontane dai temi legati al web, eccetera. Non sono un grandissimo fan, confesso. Poi, ragazzi, il problema è che ormai è impossibile vederle tutte. Sì. Leggevo oggi dei dati statunitensi di sai quante serie sono state prodotte nell'ultimo anno solo negli Stati Uniti nel 2016? Quante spara? Siamo a 455. Dieci anni fa erano la metà, 455 titoli, il che vuol dire che per ognuna i vari episodi che compongono la stagione, quindi anche una ventina per ognuna, se sono serie comiche tendenzialmente. Quindi, cioè, ormai io fino a 4-5 anni fa, non so, tu riuscivo più o meno a vedere almeno la prima puntata di quasi tutto. Oggi siamo oltre il possibile consumo, si parla da, appunto, dall'età dell'oro, si parla di televisione del picco, cioè stiamo superando la possibilità concreta del consumo. Questo sono negli Stati Uniti, se poi pensi a tutte quelle inglesi, a quelle scandinave, francesi, spagnole, solo per restare in Europa, per cui bisogna selezionare, per questo appunto Breaking Bad, Mr. Rob, ci sono alcuni titoli imperdibili, il resto poi secondo me va molto a gusto personale, alla fine poi sono come posti in cui amiamo tornare le sere, no? Visto che sono posti che frequentiamo, che viviamo stagione dopo stagione, quindi deve essere anche un luogo in cui ti trovi a tuo agio, che trovi confortevole, in cui ritrovi degli amici che sono i personaggi, per cui secondo me è assolutamente il regno del gusto personale, fatti salvi alcuni caposaldi. Sono d'accordo, ma sono sempre d'accordo con Sebastiano Pucciarelli. Che noia, veramente. Grazie per essere stato con noi. Allora, noi ti rivediamo a TV Talk tutti i sabati alle 15. Esatto, ma... alle 3 su Rai 3, che così è più facile da ricordare. Ma ci torni a trovare al sabato del villaggio, dai. Quando vuoi, è un piacere, è un privilegio chiacchierare con voi. Sono super, super, super contenta. Grazie Sebastiano, un bacio grande. Noi, un bacio grandissimo. Noi un pochino di traffico, poi saremo ancora insieme. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta il sabato del villaggio. Sua mano per la zingara di Brera è nera. Fuggi, cosa fuggi? Non c'è modo di scappare. Ho la febbre ma ti porto fuori a bere. Non è niente, stai tranquilla, è solo il cuore. Portati cinese, piove ma c'è il sole. Quando il dandy muore fuori nasce un fiore. Le ragazze fanno la fila per vedere sua tomba con su scritte le parole. Io vi amo ma vi odio però. Vi amo tutti, è bello e brutto io non lo so. Insomma, io la cantavo da questa parte del vetro, Roberta Frisani la cantava dall'altra parte del vetro, i Baustelli, un romantico a Milano, perché Milano è anche romantica a volte. Milano, della quale abbiamo già parlato nella prima ora con il nostro Davide Paolini, che ci ha dato tutte le chicche per fare colazioni, aperitivi e spuntini la prossima settimana, quando in tanti arriveranno proprio qui a Milano per il Salone del Mobile. Ma diciamo la verità, in tanti arrivano per il Salone del Mobile, sicuramente, ma anche per il fuorisalone, per tutti quegli eventi collaterali che insomma si abbracciano e uniscono la città in un sacco di eventi che inizieranno tra 2 giorni, 17 ore, 9 minuti e 44, 43, 42, 41, 40 secondi e così via, tutto il countdown che io sto prendendo in tempo reale dal sito fuorisalone.it, che è il sito un po' che ci aiuta a capire tutto quello che succede in questo, appunto, che ormai chiamiamo fuorisalone. Il responsabile del progetto, Paolo Casati. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. Che bello ritrovarti, perché ci eravamo già sentiti anche l'anno scorso. Certo. Noi siamo molto affezionati a Fuorisalone, perché chi frequenta Milano sa che non esiste un vero Fuorisalone, come dire, coordinato, se non grazie insomma alla vostra guida, che ci aiuta davvero a capire quali sono tutti gli eventi in giro per la città. Hai detto bene, il nostro strumento è proprio nato ormai 15 anni fa con questo obiettivo, quello di orientarsi e di orientare, di dare un supporto a tutti coloro i quali sono interessati a questa settimana che è sempre più unica nel panorama milanese. Allora, è vero che un sacco di gente si appassiona ormai di più al fuorisalone che al salone, ma anche degli addetti ai lavori, perché ci sono cose davvero molto interessanti in più quartieri della città. Sì, il modello fuorisalone è un modello che poi è stato utilizzato e replicato anche a Milano in altri contesti. Penso a contesto di Piano City, di Book City, no? Quindi è un modello che contamina le zone, contamina i distretti, contamina i quartieri e si diffonde in quelli che sono al momento, vedo sul sito in diretta, 1395 eventi, ovvero 1395 appuntamenti dislocati in tutta la città e organizzati poi secondo percorsi in zone o distretti, aperti al pubblico, gratuiti, dove a differenza del Salone del Mobile, che rimane comunque il punto di riferimento per tutto ciò che è furniture design, per cui detta male, per l'arredamento e il mobile, coinvolge anche quello che è la tecnologia, coinvolge la parte di automotive, coinvolge l'arte, quindi è trasversale, per questo parla un pubblico che è pari a più di 300.000 persone, che sono le stime del pubblico che passa al Fuori Salone nella prossima settimana. Pazzesco. Eventi di tutti i tipi, perché io sto guardando le liste degli eventi che avete fatto, che sono appunto davvero centinaia e centinaia, c'è un po' di tutto. È impossibile vedere delle tendenze negli eventi, c'è veramente di tutto. C'è di tutto, però c'è anche una guida sul sito che vi permette di selezionarli secondo tipologia, per cui in questo grande magma c'è la possibilità di filtrare, come diciamo noi, gli eventi in base alla zona o in base proprio alla tipologia. Quello che a me piace dire però è l'idea di perdersi, l'idea di non cercare di costruirsi veramente un percorso, ma di farsi un po' guidare, per cui dedicare magari una giornata a ogni distretto partendo dai principali, usare gli strumenti che poi ogni distretto propone e realizza in verticale e proprio muoversi e lasciarsi un po' scoprire, perché il tema del coinvolgimento, della scoperta, sono la base di quella che è l'esperienza del Fuori Salone. Poi ci sono quelli che vogliono fare i milanesi a tutti i costi, che si fanno l'agenda personale come voi consentite di fare, mettendo già i preferiti e fanno proprio scientificamente tappa dopo tappa. Sai, poi l'evoluzione con i social network, noi stiamo lavorando molto su Facebook, su Instagram, permette anche lo sharing o la condivisione, comunque la creazione di appunti che poi vengono divisi da ciascuno e proposti ai propri giro di amici. Quindi siamo ormai in una realtà in cui tutto è condiviso, così la scelta di ogni singolo utente di farsi i propri preferiti. Ricordo tantissimi anni fa lo si faceva con gli SMS, quindi io preparavo una lista di 15 imperdibili che poi mandavo con testi di SMS o mail, no? Perché era l'unico modo alla fine per condividere in diretta, non c'era le chat di WhatsApp. Ecco. Non c'era l'hashtag tipo hashtag Fuori Salone 2017 e noi troviamo tutto. Vedo che soprattutto avete una bella attività di Instagram feed, quelli che come me sono appassionati di Instagram già seguono tutti gli eventi e anche, non so, chi scarica i bancali, chi scarica, perché ormai questo è l'ambiente in questi giorni. Beh, la preparazione. Sai, chi vive a Milano, chi abita in città, non può non accorgersi di questo evento. Ormai è da giorni che è invaso fisicamente proprio la città con tutti i lavoratori che poi gravitano intorno a questo fenomeno, e Instagram è il luogo dove un po' tutto questo viene raccontato. Come citavi tu, l'hashtag ufficiale Fuori Salone 2017 è quello che ti permette un po' di scoprire, surfando in diagonale tra tutti i profili, che cosa sta accadendo. Come cifre, considera che l'anno scorso, se non ricordo male, ha superato gli 80.000 immagini, per cui sono dati significativi. Solo sul nostro sito, grazie ai 100 reporter, che sono studenti delle facoltà milanesi di design, che raccontano il Fuori Salone, abbiamo raccolto più di 10.000 immagini. Che quindi meraviglia. Sono numeri davvero significativi. Quello che non è cambiato negli anni è un po' l'alchimia, quello che sta alla base di una grande festa diffusa che coinvolge tutti. Davvero. Sono convinta e sono d'accordo, perché veramente Milano in quei giorni è molto bella, quindi vale la pena venire a fare un salto da queste parti. Grazie a Paolo Casati, io davvero ricordo fuorisalone.it, perché è davvero la mappa di tutti gli eventi molto appassionanti della prossima settimana. Grazie Paolo. Grazie a voi e ci vediamo settimana prossima. Alla prossima settimana. Noi invece ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio delle 17, perché sarà il momento di dare il via a Radio Tube.